2000 Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Benvenuti in frequenza, oggi è martedì 20 dicembre del 2011, voi avete fatto una scelta giusta, vi fate accompagnare a casa, vi fate accompagnare al lavoro, vi fate accompagnare dalla nostra radio, Blu Radio Veneto. Buonasera da parte di Flavio Bilato e da chi conduce insieme a me questa trasmissione del martedì, Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, questa serata vede protagonista la musica delle belle passate ballate, possiamo dire così, e anche un po' scanzonate in certe situazioni, e capiremo subito anche di chi e di cosa stiamo parlando, perché abbiamo con noi un gruppo che arriva direttamente da quel di Mestre, e quindi diamo il benvenuto ai Figli Unici. Buonasera Figli Unici. Buonasera. Buonasera. Ecco qua. E allora, come avremo capito già dal nome del gruppo, ci stiamo avvicinando in questa serata a quelle che sono le musiche di un artista che rimane ancora per la passione che ha trasmesso a molti, un artista che non c'è più, sarebbe a festeggiare con noi i suoi 60 anni. E da 30 anni che ormai manca e ci manca, e quindi i Figli Unici sono qui per parlarci di un grande artista quale è stato e sarà sempre Rino Gaetano. Allora, Figli Unici, intanto presentiamo Cristiano, Sebastiano, se presentate anche il resto della band. D'accordo, allora buonasera da Chiuso. Cristiano. Buonasera Cristiano, tastierista dei Figli Unici. Siamo qui in compagnia di Sebastiano alla batteria, Matteo alla chitarra, Cesare al basso e Alessandro Ciao. Alla voce, Ciao. Il nostro frontman, la voce e l'anima del gruppo. Allora, comincerei a presentarvi i Figli Unici partendo dalla fine di Rino Gaetano. Perché la fine di Rino Gaetano? Sì. La fine di Rino Gaetano perché i Figli Unici cominciano quando, tra virgolette, casualmente, vengo incontro a un articolo che leggo tutto d'un fiato. Che spiega una particolarità della fine di Rino Gaetano. Come sì. Tanti sanno, Rino scompare prematuramente all'età di 30 anni in un incidente stradale. Sì. La cosa particolare è che lui 10 anni prima ha scritto una canzone, prima di morire, dove racconta la storia di Renzo, di questo personaggio, che muore venendo rifiutato da 5 diversi ospedali. A Rino tocca esattamente la stessa sorte. Certo. Cosa succede? Mi interesso al personaggio, non conoscendolo, perché molti ancora adesso, Rino Gaetano, non riescono ad associarlo veramente a un volto, a un nome. Magari conoscono le canzoni più famose, però è lo stesso, è successo a me. Quindi mi sono interessato al personaggio, ho scaricato tutti i suoi dischi, me li sono ascoltati e mi sono innamorato della sua musica e soprattutto dei suoi testi. Da qui nasce questo appunto amore per Rino. E mi interesso sempre di più finché trovo un gruppo che fa la musica live di Rino Gaetano. E ho detto, perché no? Proviamo anche noi a fare la sua musica. Sì. Riarrangiamo con arrangiamenti moderni dove ognuno di noi possa mettere la sua vena artistica all'interno del suono. E imbarchiamoci in questo progetto. E adesso vedremo com'è andata. Benissimo. E anche perché è molto difficile come dire, inaspettato fare delle cover di Rino Gaetano. In molti si preparano per le cover di Vasco Rossi, certo, di Ligabue, di un sacco di artisti che sono ancora famosi, che sono nella breccia, che hanno comunque una musica facilmente ascoltabile. Non perché quella di Rino lo sia più difficile, sia più complessa, però nelle canzoni di Rino c'è una profondità che a volte non viene neanche colta per esatto. Quanto riguarda la sua musicalità. Sì, in Rino diciamo passa prima di tutto il suo nonsense, il suo scrivere le canzoni, le musiche, i testi in maniera quasi che sembra leggera, ma se andiamo poi ad analizzare un testo o comunque ad ascoltarlo un po' più in profondità, vediamo che non è così. Al suo interno ci sono dei contenuti a dir poco interessanti, per cui sì, il progetto è una specie di sfida, perché si parte, non dico da zero, ma si parte da qualcosa che non tutti conoscono, se non le canzoni di più importanti, più famose, esatto, di spicco. E dobbiamo sottolineare una cosa, come tu giustamente hai detto, perché Rino scriveva moltissimo, scriveva a continuazione, scriveva sì, nei suoi quaderni in continuazione, e leggeva moltissimo, si informava, esatto, di tutto. Certo, sicuramente un personaggio ben informato oltre la media, sì, esattamente. Surreale, sì. Era, certo, un cantautore atipico al 100%. Esatto. E poi lo scopriremo un po' di figli unici, Rino Gaetano lo scopriremo tramite proprio questo gruppo che si è formato proprio per dare ancora un po' di visibilità al mondo musicale, per ridar voce a questo Rino Gaetano, sia nella parte conosciuta ai più, sia nella parte sconosciuta, estrapolando anche qualche canzone che magari gli addetti ai lavori conoscevano e bene, però non ne hanno dato, come dire, la giusta spinta affinché venisse irradiata in una maniera molto molto chiara, diciamo. Esatto, sì. Ecco, allora con cosa iniziamo? Visto che prima abbiamo nominato la ballata di Renzo. Esatto, io direi che possiamo cominciare con la ballata di Renzo, che è sicuramente un pezzo interessante. Benissimo, proprio dalla voce di Rino Gaetano. Rino Gaetano, direttamente. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada, quando un'auto veloce lo investì. Quell'uomo lo aiutò e Renzo allora partì per un ospedale che lo curasse per guarir. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli quando amici. Quando Renzo morì, io ero al bar. La strada molto lunga andò al San Camillo e lì non lo mollerò per l'orario. La strada tutta scura andò a San Giovanni e lì non l'accettarono per lo sciopero. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli quando amici. Quando Renzo morì, io ero al bar con l'alba. Le prime luci s'andò al policlinico, ma lo respinsero perché mancava il vice capo. In alto c'era il sole, si disse che Renzo era morto, ma neanche al cimitero c'era posto. Quando Renzo morì, io ero al bar, bevevo un caffè. Quando Renzo morì, io ero al bar con gli amici. Quando Renzo morì, io ero al bar. Quando Renzo morì, io ero al bar. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora una buona buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo ascoltato questa canzone di Rino Gaetano, La ballata di Renzo. Tra altre cose, da poco è uscito, anzi dal 2009 è uscito la versione Rino Gaetano Live in Rarities, dove ci sono due CD con tutte le splendide canzoni di Rino Gaetano, e abbiamo ascoltato proprio questa, La ballata di Renzo. Quindi in un certo senso si parte dalla fine per tornare al principio, ancora non sapendo cosa gli sarebbe accaduto 10 anni dopo. Lui aveva scritto già questa cronaca terribile di quella che è stata la storia di Renzo, la parte finale dove... Esatto, sì. È da precisare che questa è una canzone che è stata scritta da lui quando aveva 17-18 anni e non è mai stata pubblicata in nessun CD, se non in questo, a 28 anni dalla sua scomparsa. Quindi è proprio una canzone inedita, certo, che lui non ha mai pubblicato nella sua carriera discografica. È stata poi pubblicata tramite la sorella, che ha aiutato a portare avanti tutte le nuove canzoni, tutti gli inediti, e a ricordarlo negli anni. Certo, è stata una veggenza, si può dire, su se stesso, una preveggenza di quello che gli sarebbe successo, perché poi già gli era andata bene forse un mese prima, se non ricordo male la storia. Esatto, un mese prima aveva avuto lo stesso incidente, sì, sempre con la stessa macchina, che dopo ha ricomprato di un colore diverso. Sì, a un mese di differenza, la stessa macchina che ha il nostro cantante. Qui volevo fare una piccola precisazione, sì, perché cosa succede? Che Rino Gaetano muore a 31 anni facendo un frontale contro un camion a bordo di una Volvo grigia. Sì. Io a luglio ho compiuto 32 anni, sì, e per un anno mi grattavo dove non si può dire, perché ho una Volvo grigia. Ma ormai e canto Rino Gaetano, quindi capisci che ormai hai superato la soglia. Esatto, è ancora qui. È ancora qui. Alessandro è ancora qui con esatto. Con i figli unici. Allora, abbiamo sentito le voci di tutti, abbiamo sentito prima la voce di Cristiano esordire con quella che era l'idea, il fondamento per la nascita dei figli unici. Sentiamo anche un po' quelle che sono le voci dei figli unici per la vicinanza a questo progetto. Allora, io sono Alessandro, sì, sono il cantante, e ho l'arduo compito di vestire i panni di Rino Gaetano. Sul palco, appunto, cerco di ricreare il suo personaggio, anche se è abbastanza difficile. E in effetti, insomma, li vesti i panni, perché si poi vesti i panni palco. E poi li lavo anche i panni. No, comunque senza parrucca, no? Perché questa sera ho la parrucca. C'è una pettinatura diversa. Sì, vero? Sì, ho la parrucca, ho il cilindro. Questa sera sono in borghese, di solito sì, ho la... Esattamente. Quindi, insomma, però cerco anche un attimino, di solito nelle nostre esibizioni, oltre a cantare, anche un pochino a spiegare chi era Rino Gaetano, perché magari molti lo conoscono, molti non lo conoscono, e chi lo conosce magari non conosce chi era veramente Rino Gaetano, e magari gli diamo anche un piccolo indirizzo. Tu hai detto una cosa giusta, perché Rino Gaetano aveva l'abitudine, una bella abitudine, quando cantava scendeva dal palco e spiegava alla gente, parlava della gente, dei pezzi che faceva. Sì, sono pezzi anche abbastanza... non è semplice capire i pezzi, perché ci si ferma sempre a un fattore superficiale, mentre invece molte volte quasi tutti i pezzi di Rino Gaetano sono dei pezzi molto profondi. Certo. A me piace pensare che Berta Filava, che è un pezzo particolarissimo, viene dedicato da Rino Gaetano ad Aldo Moro, sì, nel periodo del qualche anno prima che Aldo Moro venisse rapito e ucciso per il compromesso storico. Infatti il santo che andava sul rogo, secondo Rino Gaetano, sarebbe stato Enrico Berlinguer, quindi insomma qualcosa anche abbastanza di particolare. Erano tempi particolari, difficili. Esatto. Bene, ha preso la parola Matteo. Io sentiamo Cesare. Sì. Sono venuto qui per, diciamo così, ridere all'inizio e invece dopo non era così. Invece dopo veramente sentendo si è rivelato un progetto più serio. Eh sì, possiamo dire che il buon Cesare, il nostro bassista, deriva, sì, esatto, deriva da una musica molto diversa da quello che è il range di Rino Gaetano. Esatto, arriva dal metallo pesante, cioè, Ozzy Osbourne prima, no? Esatto. Sì, però dobbiamo sottolineare che nei dischi di Rino Gaetano a casa c'era, non dico il metallo pesante, ma c'era Jimi Hendrix, quindi i Beatles, Jimi Hendrix, magari allora stiamo parlando già ai tempi dei Crunks, ancora quando Rino Gaetano doveva sfociare con tutta la sua grinta, però già prestava un'ottima mano a quella che era la sua musica. Certo, questo è verissimo. Lui aveva in casa sua, aveva tantissimi dischi, e partiva da Jimi Hendrix, passava ai Pink Floyd, passava ai Supremes, ai Pretenders, cioè soul, rock, aveva un po' di tutto, che voleva sentire di tutto. Ma nei suoi dischi si sentono queste influenze, di tutte le influenze, esattamente. Per cui è una cosa, volevo chiederti, visto che parliamo del bassista, che difficoltà avete avuto a fare la musica di Rino? Non è semplice la musica di Rino, è complessa, perché c'è tante variazioni. C'è tante variazioni. Non è semplice, esatto. Perché sinceramente bisogna, com'è che si può dire, bisogna rendere in musica e diciamo i suoi concetti, esatto, e che lui vuole dare. Sì, insomma non è semplice, anche perché gli arrangiamenti dell'epoca da rifare adesso comunque con una band di 5 elementi è un po' difficile, perché comunque in studio le canzoni registrate in studio avevano molti elementi, fiati, cori, noi siamo in 5, lo portiamo live, non abbiamo riferimenti live, quindi dobbiamo riarrangiare le canzoni e trovare un nostro modo di suonarle. Esatto. Anche perché, se non sbaglio, Rino Gaetano contestava un po' anche quello che era l'effetto di cantare facendo finta di cantare, sì, no? Sì, quindi sì. Lui a un certo punto lasciava andare la musica e la canzone e andava in mezzo al pubblico ad ascoltarla con loro. Questo perché molti gruppi, ma diciamo alcuni anche costretti, dovevano suonare in playback per una questione di quasi di etichetta, di costume. Lui chiaramente si rifiutava, perché diceva: la musica la canto io, la suoniamo noi, perché devo suonare in playback. Questo è sicuramente una cosa da apprezzare, perché la musica fatta dal vivo sicuramente... C'è un video del 70 e rotti su Rai, in cui lui sulla canzone cantava le canzoni. Praticamente suona tutto, canta staccato dal microfono e fuori tempo per far capire che è un playback. Credo fosse un festival bar, credo. Ma mi sa che alla fine sono pochi playback che ha fatto preciso, perché è bellissimo da insomma vedere, perché uno vedi che è proprio una protesta a quello che ti propinano, a quello che ti obbligano a fare. Non c'è la libertà, e lui voleva essere libero di fare quello che gli piaceva, quello che era il suo lavoro e passione. Bene, assolutamente sì, abbiamo visto, perlomeno noi che abbiamo una certa età, vero Maurizio? Certamente. Abbiamo anche vissuto un po' quelle che sono state le scene in diretta di Rino Gaetano, e questo suo non volere quindi turbare anche quella che è la produzione Rai di quel tempo, che era proprio, come dire, incravattata, quindi si doveva stare su un certo target senza sconfinare, e lui ci provava ogni volta, veniva comunque ripreso, e lui diceva: se mi volete è così, io sono così. Bene, ancora qualche commento riguardo l'entrata nel gruppo. Matteo, tu che stavi... Io sono l'ultimo acquisto del gruppo, perché appunto sono stato l'ultimo a far parte di questa formazione. Mi ha invitato Cesare a far parte di questo gruppo, io lo ringrazio mille volte per questa opportunità, e mi sto divertendo tanto. Anch'io vengo dal rock, perché comunque prima di questo progetto qua suonavo con una band che suonava Queen, quindi tutta un'altra cosa, però c'è una cosa in comune tra quel progetto e questo, il fatto che comunque posso suonare un po' tutti i generi, perché sia Rino che Queen, accostarli è una cosa un po' particolare. Sì. Però spaziavano un po' su tutti i generi, perché comunque dal rock al blues al funky al reggae c'è la possibilità di suonare un po' di tutto, quindi è anche questo un aspetto molto, molto bello dal punto di vista musicale, il fatto di poter suonare tanti generi. Diciamo, no, non legato a un genere musicale, no, come sono molti gruppi, però diciamo ogni base di canzone veniva utilizzata proprio per una canzonatura piuttosto che per un atto di protesta. Va detto che Rino Gaetano è stato il primo a portare il reggae in Italia, in italiano. Certo, dopo Bob Marley, il famoso concerto dell'80 a Milano, prima c'è stato lui a portare lui a qualche canzone di Loredana Bertè. E la Luna Bussò, ricordiamocela. Esatto, quindi è stato lui, insomma. E ha portato anche dei pezzi che secondo me sono un rock pesante per quell'epoca, cioè un rock abbastanza duro, perché tipo E io ci sto, cioè una canzone che è un rock che adesso... Che è un album, cioè, che non è stato capito anche per quello come impatto, non è forse stato capito subito. Dimmi. Approfitto per dire, è vero, spesso i dischi di Rino non venivano capiti, perché quando diciamo il contesto generale era quasi serio, c'era questa serietà, questa voglia di... Rino scherzava, sì, prendeva lui, in giro. Esatto, perché lui voleva divertirsi esatto. E divertirsi. A un certo punto, quando le cose si sono rovesciate e gli altri cantanti hanno cominciato a fare qualcosa, non voglio dire di superficiale, ma comunque più leggero, più divertente, Rino Gaetano è tornato a scrivere qualcosa, non dico con accuse pesanti, però comunque con dei contenuti di un certo tipo che nelle canzoni non si possono non notare. Certo. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con i Figli Unici. Abbiamo capito il perché del nome, ne stanno parlando adesso proprio per ricordare anche la figura di Rino Gaetano. Adesso, visto che vi siete portati anche una bella chitarra che suona Matteo, abbiamo un pezzo che ci fate allora, ascoltare. Introdurrei il pezzo. Perché? Noi siamo i Figli Unici e il nome è tratto da una delle canzoni sicuramente più famose di Rino Gaetano, che è Mio fratello figlio unico. Mio fratello figlio unico fa parte del suo secondo disco e sicuramente diciamo una delle canzoni con cui Rino ha fatto il botto. Dopo Ma il cielo è sempre più blu del 1975 arriva Mio fratello figlio unico, che adesso andremo a proporvi in acustico. Da precisare che nessuno di noi è figlio unico. Esatto, tra l'altro. Anzi, qui questa sera ci sono fratelli, ben due fratelli. Quindi, esatto. Il gruppo parte da due fratelli, quindi. Perfetto. Perfetto. Allora ci ascoltiamo questo pezzo. Fratello è figlio unico, perché non ha mai trovato il coraggio di operarsi al fegato. Non ha mai pagato per fare l'amore, non ha mai vinto un premio aziendale. E non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. Hai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico, perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone. Perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità. Perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Fratello, figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. Mio fratello, figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. Mio fratello e figlio unico, dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario, oh, oh, oh, oh. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Mio fratello è figlio unico, un pezzo del 1976 ad opera di Rino Gaetano, l'hanno cantata qui in diretta live i Figli Unici. Ricordiamo che nel 1976 uscirono due 45 giri di Rino Gaetano. Il primo era appunto nel maggio, Mio fratello e figlio unico, che portava nel lato B Sfiorivano le viole, tanto per, per rendere il contrario di quello che si voleva dire normalmente, Fiorivano le viole. E poi ancora nel luglio del 76 usciva Berta Filava e con il lato B mio fratello e figlio unico. Quindi vuol dire che si doveva lanciare a tutti i costi, secondo la casa discografica, questo pezzo. E allora probabilmente anche un'idea, diciamo, originale, un po' così fuori dalle righe di Rino Gaetano, aveva portato a inserire proprio nel lato B quello che prima era stato lato A. Certo. Dobbiamo sottolineare una cosa, Flavio, che forse molti non lo sanno. A Mio fratello figlio unico hanno partecipato musicisti di grande, valenti musicisti, tra l'altro Gaio Chiocchio e Arturo Stalteri, i Piero Lunè. Ah, i Piero Lunè, ecco qua. Ecco, questo è il motivo perché noi abbiamo recentemente intervistato Arturo Stalteri, che lui ha presentato un suo disco di Natale, e mi ricordavo che il buon Bannuccio, che è un amico di Arturo e anche produttore del disco ultimo di Arturo, mi diceva della partecipazione di Arturo e di Gaio al disco di Rino, ed era proprio Mio fratello figlio unico. E tra l'altro Gaio Chiocchio suonava il sitar, una cosa molto importante all'epoca, sì, 76, ricordiamo. Voi citavate il principe prima, nonché Maurizio Vandelli, perché è stato il primo in assoluto a citare, a utilizzare il sitar con l'Equipe 84. E in questo disco c'era il sitar di Gaio Chiocco e l'organo e il clavicembalo di Arturo Stalteri, oltre a tanti altri musicisti. Bene, hai detto adesso, hai nominato Maurizio Vandelli, quello che viene considerato il principe, e loro in un certo senso si sono avvicinati a Vandelli. L'abbiamo incontrato da poco. Sì. L'avete incontrato da poco, l'abbiamo, quindi abbiamo toccato anche. L'abbiamo toccato. Bene, è com'è? È umano? Sì, è umano. Devo dire che lascia basiti perché è altissimo, cioè un metro e 90, anche forse di più. Un armadio. Sì, sì, però una persona simpatica. Io ricordo che l'Equipe 84 un po' di tempo fa girava con lui che era alto, il bassista che era basso. No? E il batterista era ancora più basso. Il batterista era il più basso di tutti. No? Esatto. Quindi... E anche in questo caso il batterista è il più basso di tutti. Vedi, ha riproposto la band. Esatto. Quindi, benissimo. Anche in questo caso, nel senso della band di Miranda, no? Che suona, dove suona Maurizio Vandelli. Ma questa era una domanda che volevo andare oltre, ovvero quello che è l'attività dei Figli Unici all'interno di concerti o altre manifestazioni. Sì, allora i Figli Unici appunto nascono come tributo a Rino Gaetano. Tributo cosa significa? Riproponiamo le sue canzoni, però non cerchiamo di copiare il personaggio, perché come si sa certi artisti sono unici e sarebbe del tutto inutile, forse si farebbe anche peggio a cercare di scimmiotare qualcuno. Niente, i Figli Unici diciamo che ripropongono le sue canzoni, vogliono far passare quelle che sono i contenuti, le emozioni, quello che c'è di buono nella sua musica, però con lo spirito dei Figli Unici. Cioè noi qui siamo in cinque a suonare e ognuno di noi diciamo che cerca di mette qualcosa di suo, il proprio suo stile, strumento, il suo stile, la sua musica, e quindi andiamo a proporre di qualcosa di originale, ecco, diciamo. Cerchiamo quindi non di... la cover a tutti i costi o al 100%, infatti, ma abbiamo tirato fuori un qualcosa di simpatico, secondo me, che è nel nostro demo che stiamo portando nei vari locali dove poi noi andiamo a suonare, che è una versione un po', a me piace definirla tropical funk, anche se forse magari un po' esagerata, di Gianna. Gianna è un grande successo di Rino Gaetano, il più grande successo, è arrivato a Sanremo nel 78, ha avuto una grandissima affermazione. Sì, si riusciva a mixare bene anche con Bob Marley, no? Esatto, sì. La canzone che lui odiava più di tutte, tra l'altro, perché in pochi lo sanno, Rino Gaetano voleva andare a Sanremo con un Tareg più, non sarebbe mai potuto andare con una canzone che parlava di politica e comunque di personaggi della finanza, e gli hanno detto la casa di... gli hanno detto che non sarebbe mai potuto andare con quella. Micocci ha detto di no. Micocci ha detto di no. E perché all'inizio Gianna veniva considerata da lui un po' troppo commerciale, forse una canzoncina, sì, forse troppo sanremese, esatto, no, forse anche può darsi che sia anche la più disimpegnata di Rino Gaetano, probabilmente. Sì. Gianna è un giochino alla fin fine che tratta di alcune rime, poi Rino Gaetano, giustamente, avendo fatto teatro, era bravissimo a parlare, quindi a trarre spunto da quello che lui pensava, farlo diventare una canzone, un racconto, quindi lui la odiava profondamente, Gianna. Quindi insomma è anche un po', forse quella del nostro demo potrebbe odiarla meno, perché... sì, probabilmente sì. Vediamo il nostro allora... arrangiamento di Gianna, esatto. Potrebbe trovarlo interessante. Vabbè, allora speriamo. A questo punto cosa fai, ce la metti? No, cercherò di metterla. Dai. Anche perché insomma è un qualcosa che abbiamo fatto, abbiamo tirato fuori dal cantiere da pochissimo, perché questo demo è proprio fresco giornata come le uova. Forse quindi... lo sentirò anch'io per la prima volta mixato. E quindi anche per noi è un grande piacere sentirlo, soprattutto in radio, quindi... E se non si capisce, ma ne andiamo un po' orgogliosi. mi sembra che tu che suoni la chitarra sei, eh? Vabbè, allora si va con questa canzone. Abbiamo stravolto i tuoi piani? No, assolutamente no, anzi, fa sempre piacere. Blu Radio Sera. Ma dove vai? Vieni qua. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Era il lontano 1978, Rino Gaetano partecipava al Festival di Sanremo, il suo primo festival, non ci credeva fino in fondo per quelle che erano le relazioni del pre-festival, però poi alla fine è arrivato anche terzo. E prima c'è stata Anoxa, sì, poi ancora i Mattia Bazzar, sì, c'erano i Mattia Bazzar, sono arrivati i primi, e questo 45 giri che era stato, come dire, lanciato subito dopo il festival, era arrivato a ben 600.000 copie. Sì, ebbe un successo incredibile, fu quello che sdoganò dal punto di vista commerciale Rino praticamente. Esatto, e nonostante fosse arrivato terzo, è quello che poi ha avuto più riscontro nel post-festival, da non dimenticare. Devo solo citare un piccolo aneddoto molto divertente a proposito del festival. Prima che lui andasse a Sanremo, andò a trovare Renato Zero. Cioè Renato Zero e un amico andarono a trovare Rino a casa sua. A un certo punto Renato regalò a Rino un cappello nero a cilindro. Fu quello che poi Rino decide di portarsi sul palcoscenico di Sanremo. Una belle cose queste, perché l'ambiente romano, Venditti, De Gregori, lo stesso Renato Zero, erano molto legati a Rino. Venditti ha sempre detto Rino era un grande amico mio da sempre, dall'inizio alla fine del suo percorso sonoro, anche perché bazzicava anche lui al Folk Studio. Sì, esattamente, il Folk Studio è proprio il culmine dove sia De Gregori sia Venditti bazzicavano, e anche lo stesso Rino Gaetano. Dobbiamo sempre parlare di Micocci, che è quello che ha fondato la HIT, che portava tutti i cosiddetti musicisti emergenti. Dobbiamo ricordare che il Folk Studio era un locale, una stanza dove suonavano, non era un granché, una stanza, e suonavano tutti esclusivamente pezzi loro, nessuna cover. E quindi era impossibile non incontrarsi, perché quando usciva uno entrava l'altro, per cui perlomeno sulla porta ci si scambiava qualche opinione riguardo anche quello che era. Anche se Rino non aveva delle buone opinioni su De Gregori, No. Assolutamente no. Vabbè, lasciamo perdere. Invece era molto amico con Venditti, sì, no? Decisamente. Poi ha prodotto anche Primo Albe. Eppure, sì, se voi ascoltate Fabbricando Case di Rino Gaetano, sì, che c'è il coro di De Gregori. Il coro di De Gregori, quindi poi alla fine probabilmente... Però sulla Zappa c'è una piccola critica nei confronti di De Gregori sul testo, vabbè, la Zappa. Andiamo su qualcosa di difficile. No, andiamo a spulciare. Ma lì dicono che Rino aveva un sacco di donne, mentre Venditti e De Gregori no. Ah, questi erano i malini. Erano degli sfigati. Forse Rino era più simpatico. Era no? Più simpatico. Vai pure, ma dovevi dire una cosa a proposito. Sì. Allora, volevo dire che poi questo cilindro abbiamo avuto l'onore di riportarlo sul palco del Teatro Toniolo di Mestre. Mm. Quando il 7 dicembre abbiamo avuto il grandissimo, e sottolineo grandissimo, onore di aprire il concerto a Maurizio Vandelli, il principe, storico leader degli Equipe 84. Devo dire che è stata veramente una grossa emozione, seppur per i 30 minuti, i risicati 30 minuti di spazio che abbiamo avuto, ma suonare di fronte a 750 persone su un palco di un certo livello è stato davvero una cosa grande. Devo dire che c'è stato anche un bel riscontro da parte del pubblico, che chiaramente era venuto per un'esibizione breve ma intensa, per godere della musica di Vandelli, però diciamo che c'è stata risposta anche con i pezzi famosi di Rino Gaetano. E con Gianna facevano i cori? Subito li avete scaldati per bene? Sono riuscito a farli cantare. Ecco, abbiamo smesso di suonare, ho detto adesso tocca a voi. Il Teatro Toniolo cantava Gianna. Esatto. Noi, sì. È stato un grande onore, e anche una sorpresa, immagino. Ma per voi è stata una grande sorpresa. Perché ogni volta dite, ma chissà se canteranno. Soprattutto perché tu sali sul palco, sì, sapendo che hai 30 minuti contati di cronometro e hai 750 persone che ti guardano, ma non sono venute per vedere te, sono venute per vedere Vandelli. Quindi tu devi fare un lavoro che è ancora più difficile, cioè nel senso tu devi colpirli. Sì. E tra virgolette credo che ci siamo riusciti, perché sia con Gianna e soprattutto anche con Il Cielo è Sempre Più Blu, eccolo, sono riusciti a cantare e ci hanno fatto un bellissimo applauso che effettivamente ci ha fatto venire una pelle d'oca strepitosa. Che poi sentire applaudire la gente sui primi tre accordi del Cielo è Sempre Più Blu è una gran cosa. Esatto. Bene, e quindi adesso appuntamenti live ce ne sono confermati in giro? E ci prendiamo una, qualcuno fortunato si può prendere una piccola pausa di ferie natalizie. E qualcuno di fortunato, ma bisogna dire che dietro a questo piccolo progetto, che non vuole essere un piccolo progetto ma un grande progetto, nel nostro piccolo c'è comunque tanto lavoro, perché il gruppo parte un anno e mezzo fa, è partito da zero. Diciamo che tutti noi cinque avevamo già avuto esperienza sia sul palco che fuori con la musica, però diciamo che questo tributo è, diciamo, il primo, la prima occasione di un certo tipo dove possiamo esibirci, far musica, presentare qualcosa di nostro. Per cui nel lungo questo anno e mezzo di avventure, diciamo che c'è stato veramente tanto impegno, tanti momenti direi quasi difficili, perché organizzare cinque persone, organizzarsi i concerti, autoproporsi, perché noi chiaramente facciamo tutto da noi e quindi è stata, queste soddisfazioni ci ripagano veramente tanto. Anche perché avete un lavoro, diciamo, al di fuori di quello che è il tema musicale, che vi tiene impegnati durante il giorno. Per noi è un hobby, un passatempo e soprattutto un divertimento, suonare. Domani mattina ognuno è sul posto di lavoro pronto. Esattamente, quindi è il combattimento. Certo, d'altronde come noi, che poi alla sera siamo qua a divertirsi in radio e per proporre agli ascoltatori sempre cose nuove. La cosa bella è che ci divertiamo a fare questa cosa, quindi non ci pesa assolutamente, anzi. Esatto, comunque ci fermiamo per queste feste natalizie, ma da gennaio, metà gennaio riprendiamo con un 2012 sicuramente scoppiettante e saremo in quel di Maser come prima data del 2011. Passeremo a 2012. Sì? Sono ancora Maser è in provincia di Treviso. Treviso. Sì. Giriamo al Degusto. Si chiama Degusto, è un locale che propone musica particolare, quindi ci piace anche sottolinearlo, perché per carità i ragazzi che lo gestiscono sono degli amici e uniscono la buona musica al buona tavola, al buon bere, quindi insomma tre cose che vanno d'accordo. Rino amava il buon bere, assolutamente. Lui girava sempre in certe osterie cosiddette, esatto, al Barone, c'era una famosa dove andava. Il Barone era suo amico praticamente. Tra l'altro una cosa che a me piace sottolineare, che è stato fatto una piccola disinformazione con quella fiction che è stata fatta da parte della Rai. Sì. È stato fatto passare come un alcolista. Assolutamente Rino Gaetano era una persona a cui piaceva bere, anche noi piace bere, perché qui sopra sul tavolo abbiamo una buona bottiglia di rosso. Bisognava ricordare. Insomma, i piaceri. Sì. Però era una persona che amava bere, ma nel senso bere nel senso di degustazione delle cose, non erano certamente un ubriacone. Ma sai, dopo molti cronisti lo vedono magari alzare il gomito un po' di più una volta, e a quanti non succede solo una volta di alzarlo un po' di più, e allora sembra che tutte le volte che sei sulla breccia ti è concesso quasi tutto. Sì, quando poi magari non sei proprio al massimo, vieni stroncato per quelle cose, quindi è sempre un po' il jet set che ti porta a certe cose. Certo, ascoltiamo un altro pezzo acustico. Cosa bolle in pentola da quella parte dello studio? Bollire? In pentola facciamo bollire un pezzo che parla di lavoro in questo periodo anche un po' difficile per tutti. Sì. Noi di solito lo mettiamo in un medley. Facciamo due canzoni di solito, che una è Fabbricando case, che parla di come si costruisce, di un male atavico che ci attanaglia in Italia, che è quello del costruire solamente per un discorso di portare a casa più soldi possibile. E poi ci leghiamo alla canzone che adesso andremo a fare, che è L'operaio della Fiat, la 1100, che parla di lavoro e di operai magari anche un po' sfortunati. Esatto, anche qui se ne andiamo ad ascoltare il testo un po' più in profondità vediamo che c'è un'ironia che però è sottile. Ora Matteo eseguirà questo bellissimo pezzo. Ascoltate le parole perché ne vale la pena. Poco a poco la tua schiena, neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro senza pensieri dagli amici a Moncalieri. La 1100, la 1100. Hai lasciato la catena, un bicchiere di vino buono ti ridà tutto il calore, trovi la tua donna e fai l'amore, sei già pronto per partire, spegni tutte le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto alla carne per 3 giorni e sembra una Torino abbandonata, trovi la tua macchina bruciata. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questa era una canzone di Rino Gaetano interpretata dai Figli Unici che abbiamo qui in diretta dai nostri studi di Blu Radio Veneto. Ancora buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Allora, una storia terribilmente attuale, perché le catene di montaggio esistono tuttora, e mi ricordo anche quel film di Charlie Chaplin dove si evidenziava in una maniera netta quella che era la vita, sì, tempi moderni, quella che era la vita dell'operaio anche fuori, a volte esagerando un po', ma insomma. Bisogna dire che anche il buon Gaber aveva fatto una canzone simile con il Tic. Il Tic, ancora certo. A suo tempo, certo. Ovviamente si riferiva, visto che stiamo parlando di grandi cantautori, come non menzionare anche il buon Gaber. Certo. A proposito di questo disco, c'è una cosa che voi sapete sicuramente, ma i nostri ascoltatori non lo sanno. Quando incise questo disco, quando ha finito le basi, andò da Micocci. Micocci era il leader della IT, era il padre di tutto il cantautorato vicino alla IT, e disse, lui si presentò alle 11 di mattina e disse a Micocci, mi disse che non era, io non voglio cantare questo disco, non è mio, non mi sento di cantarlo. Anzi, c'è un mio amico vicino qui fuori che può cantarlo al posto mio. Sì, voleva farlo cantare ad un altro. Esatto, voleva farlo cantare un altro. Non era soddisfatto, aveva paura, c'era emozione. No, non si sentiva in quel momento adatto a cantare quel disco. E dato a sapere chi era la no, persona. Non l'ha citato. Cioè, nel libro che cito adesso, che Rino Gaetano Live o Live di Emanuele Di Marco, non cita l'amico. Un amico, diceva lui, che è fuori, che mi aspetta, che può cantarlo al posto mio. Ma c'è da dire che Rino Gaetano non si sentiva un cantante, in effetti la voce di Rino Gaetano è una voce particolarissima, anche brutta se uno la va a sentire in termine tecnico, però alla fin fine forse se fossero state cantate le sue canzoni da qualche altro cantante magari più impostato non avrebbero reso la stessa, nella stessa maniera. Ad esempio A me piace il Sud è una canzone scritta da Rino Gaetano, interpretata da se stesso, che però poi per, credo, Canzonissima, sì, o è stata portata da... esatto, è stata portata da Nicola Di Bari, esatto, sì. Stravolto il ritornello, la canzone non ha più lo stesso significato, perché parla d'amore, mentre invece ad esempio A me piace il Sud è una foto del Sud Italia, per chi c'è stato, per chi l'ha visto, per chi l'ha vissuto, ritrova in Rino Gaetano quello che effettivamente si vede il Sud Italia. Si pensava che bastava solo cambiare il cantante, l'importante era collocarlo comunque al Sud, in realtà è stata un'operazione sbagliatissima. E fu eliminato subito Nicola Di Bari da Canzonissima con questo pezzo, e Nicola Di Bari andò più di una volta a casa di Rino Gaetano per provare questi pezzi. Però l'impostazione di Rino Gaetano era una cosa, l'impostazione canzone melodica di un cantante come Nicola Di Bari è un altro. Mi stupisco anzi che Rino Gaetano abbia dato il suo sì in questo caso. Ma secondo me c'è il discorso della RCA dentro, forse era veicolato in c'è caso. Un discorso anche forse da fare, che Nicola Di Bari in quel periodo era un cantante che era sulla cresta dell'onda, certo. Rino Gaetano era un cantante fuori dagli schemi, e quindi presumibilmente per un programma di prima serata, il programma di punta dell'unico canale italiano, non si poteva mandare Rino Gaetano in televisione, quindi giusto. Anche questo c'è da tenere conto. Poi tu hai detto una cosa giusta: lui non aveva una bella voce, anche non sapeva suonare, suonava male la chitarra, però giustamente i critici hanno detto suonava male la chitarra, sì, però aveva un grande senso dell'armonia ed era fondamentale. Sì, quello sì. Sì, non era un artista studiato, era un artista che usava la voce in modo così semplice, grezzo, diciamo, perché certo. Alla fine era una voce grezza, non impostata, e alla fine è stato il suo punto di forza. Sì. A questo proposito ricorderei che Rino Gaetano, eccetto una canzone che resta Vile Maschio Dove Vai, che è stata scritta dal grande Mogol, tutto il resto della sua produzione è stata scritta sia la musica che i testi da lui in persona. Quindi diciamo che è riuscito a fare tutto da sé e direi anche con, diciamo, musiche abbastanza semplici, orecchiabili, ma efficaci. E noi che le suoniamo vi assicuriamo che non tutte sono delle canzonette così semplici come possono apparire. Le belle bestie. No. Certo, sì. Quindi sono meno scontate di quello per che... Per cui diciamo c'è un valore aggiunto alla persona, perché non tutti scrivono musiche e testi da soli. Certo. E dobbiamo sottolineare, Massimiliano, tu hai detto una cosa giusta, che imparò da solo, era autodidatta al 100%, a scuola, assolutamente. Imparò da solo, continuazione, provava in continuazione, la chitarra che gli fu regalata e via. Certo, sì. E siamo nel 1974 in questo caso, quando usciva il suo primo album solista, che era Ingresso Libero, e all'interno di questo album ancora c'erano i vinili, ha fatto solo vinili Gaetano, e c'era ad esempio A me piace il Sud appena citata. Adesso nella scaletta, per far conoscere anche la musica dei Figli Unici, cosa possiamo inserire? Beh, allora direi che a questo punto si potrebbe procedere diciamo quasi con ordine. Abbiamo parlato prima, presentavamo un pezzo che parlava attento che è giusto, no, perché che ha provato a fare ordine ha fatto gravi danni in passato. Un ragioniere, esatto. Cristiano è una persona precisa, vengo ci tiene all'ordine, vengo redarguito subito, esatto. Bene. Okay. Fanno bene a riprendermi d'altra parte. Allora, dicevo, il prossimo pezzo che andremo a proporvi è Berta Filava. Ah, proprio bellissimo. All'inizio della trasmissione Alessandro ci parlava di questo pezzo dove Rino, diciamo, scherza un po' con la politica, scherza un po' con i personaggi che riguardano questa canzone. Diciamo che fa un pezzo, oserei dire, dispersivo, quasi dispersivo, perché in un periodo in cui le parole, direi, le chiacchiere sono tanti, allora anche Rino Gaetano ci propone una canzone un po' così leggera, allegra, simpatica, con un bel tiro, direi, che però ha i suoi significati efficace. Anche questa, perché alla fine sembra una canzone scanzonata, però passa su temi comunque di emancipazione femminile, va un po' in contrasto con quella che era la figura della donna così un po' romantica, con questa Berta che è donna emancipata che passava da Mario, anche, da anche perché poi Berta Gino. Filava è un famoso detto, no? Famoso, sì, moto, sì. Dei tempi in cui Berta filava, e quindi insomma è sempre questo riprendere anche luoghi comuni da parte di Rino Gaetano. E attenzione, perché anche qui si parla sempre di tante donne, ma poi se andiamo ad analizzare sotto sotto Berta chi è, adesso lo vediamo, lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sun. filava, filava. E filava, filava. E filava, filava. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa era Berta Filava, la voce era quella di Alessandro, i cori erano quelli dei Figli Unici che sono qui con noi questa sera a Blu Radio Veneto per rivivere un po' le emozioni di Rino Gaetano, ma anche per spiegare quello che è il progetto dei Figli Unici. Berta filava in varie maniere, quindi un verbo che significava molte cose e che Rino Gaetano usava così un po' giocando su questo termine, ma dicendo cose importanti, interessanti e a volte nascoste. Sì, il bello è che questa è una canzone di tre accordi, sei d'accordo? Sì, tre accordi, solo tre accordi. La, re, mi. Esatto, semplicemente la, re, mi. Un blues praticamente. È un blues, esattamente. L'hai fatto abbastanza elettrico dall'inizio. Eh sì, da qua si sente quella voglia di riarrangiare le canzoni, di reinterpretarle, perché alla fine l'originale si basava su un giro di basso con effetto wah wah e appunto su quei tre accordi, e abbiamo invece riarrangiato con una chitarra elettrica un po' più distorta, un po' più spinta, e l'abbiamo resa un pezzo alla fine rock, perché ha una sonorità rock. Certo, è assolutamente una sonorità rock. Ho letto sempre su questo libro che Berta Filava aveva cioè praticamente un pezzo di 10 anni prima che si chiamava Betta Filava, è una reinterpretazione della Divina Commedia praticamente. Quello spirito così un po'... Divina Commedia che cade a fagiolo. Esattamente. Perché approfitterei di prendere lo spunto da questa Divina Commedia, perché quando andiamo a vedere un testo di Rino Gaetano si nota quasi questa maniera di scrivere a strati, direi. Diciamo c'è il primo livello che è quasi superficiale, dove sembra che Gianna sia una ragazza un po' matta, eccetera, che questa Berta filava... se la fa con Mario, con Gino, eccetera, e poi pian piano, mano a mano, andiamo avanti e vediamo che forse questa Berta filava, chi guarda il santo vestito d'amianto ma magari non guarda cosa dice chi è quel santo lì, e possiamo trovare diversi livelli interpretativi delle, che appunto anche canzoni. Berta, che sembra una canzone tanto scanzonata, alla fine è una canzone di denuncia sociale. Poi noi ci abbiamo pensato noi a renderla un po' più vivace. Avete sentito l'arrangiamento delle chitarre di Matteo, molto bello tra l'altro, che ha ridato vita, ha ridato vigore a questo pezzo. E così dai, cerchiamo sempre di metterci lo zampino. Quel pochino di rock alla fine. Sì, ma il discorso che avete fatto in precedenza, sì, tributo non vuol dire riprendere le cose, ma trasformarle, crearle alla vostra, come voi volete, quello è importante secondo me. Infatti tributo vuol dire omaggio. Esatto, vuol dire omaggio, non riprendere le cose come una carta velina, esatto, e farla come erano una volta. No, bisogna cambiare. Esatto. noi non risuoniamo, ma appunto facciamo un tributo. Riarrangiamo. Esattamente. E questo tributo, questo è un pezzo assolutamente rock, come abbiamo detto. Ovviamente, quindi una trasformazione del pezzo famosissimo, era una cantilena, possiamo dire, un pezzo che entrava, era orecchiabile al 100%. Certo, una è cosa... bello, perché con questa canzone, quando comincia a suonarla, la gente comincia a battere le mani automaticamente sul tempo, perché è un tempo dritto e immediato. Sì, ecco, una cosa che volevo chiedere, adesso stiamo spiegando un po' le canzoni e quelle che sono le motivazioni nella scelta. Quando siete con il pubblico davanti, che conoscono bene le canzoni di Rino Gaetano, ma bene nel senso che conoscono i ritornelli, conoscono un po' la melodia, cercate di dare una spiegazione per rendere ancora più vivo poi quello che sarà l'ascolto, come stiamo facendo adesso? Dipende poi dal tipo di canzone. Ovviamente sulle più famose io cerco di solito di non spiegarle mai troppo le più famose, perché altrimenti si va a perdere magari un po' quello che è l'onda emotiva che ha la gente sentendo il titolo. Anzi, tante volte magari facciamo qualche giochino, appunto, tipo con Gianna, io e Matteo ci divertiamo, chi la indovina con un accordo, appena fa il primo accordo tutti quanti Gianna ti dicono, allora infatti giochiamo facendo qualche accordo di qualche altra canzone, tanto per un po', anche perché poi ci piace. Fondamentalmente Rino Gaetano è una persona particolarmente scherzosa. Sì. Nuntareg più nasce da uno scherzo fatto da Rino Gaetano, un amico che a un certo punto lo guarda e gli fa: Rino, Nuntareg più in romano, in una notte butta giù Nuntareg più. E quindi Rino Gaetano è una persona particolarmente scherzosa, e anche noi insomma vogliamo anche un po' tenere questo fil rouge che unisce lui a noi, anche magari molto lontanamente, però insomma mantenendo sempre anche un po' l'allegria nei confronti delle persone, perché comunque le canzoni sono allegre, parlano magari anche di qualcosa di importante, però comunque sempre con l'allegria e la simpatia, ecco. Certo, prima si parlava di Gianna, poi di Berta Filava, ma non finivano qui le canzoni dedicate alle donne, ce n'era un'altra in particolare. Donne, Ai Maria, una delle più famose. Poi va bene, c'è il compleanno della zia Rosina, Scusa Mary, altre canzoni. Aida soprattutto è una delle più famose. Eccola qua, sì, Aida è un po' un gioco questa canzone sotto il punto di vista musicale, perché riprende il motivo dell'Aida di Verdi e parla di 50 anni d'Italia dagli anni 20 agli anni 70, anni in cui appunto viveva Rino Gaetano, e visti con gli occhi di questa donna, appunto, una donna bellissima di nome Aida, e parla di tutto quello che succedeva in Italia e soprattutto anche per chi l'ho accolto, di qualche scandalo dell'epoca. Infatti alla fine della canzone i vari animali, il safari, non sono degli animali veri ma sono dei nomi in codice di cui però ancora nessuno sa veramente chi siano questi personaggi. Bene. Le famose antilopi e giaguari. Ascoltiamo Aida? Ascoltiamola. Lei sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari, e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte, e dopo giugno gran conflitto, e poi l'Egitto, un'altra età, marce spastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità, e poi il ritorno in un paese diviso, nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella, battaglie, i compromessi, la povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Aida, la costituente, la democrazia, e chi ce l'ha? E poi 30 anni di safari, fra antilopi, giaguari, sciacalli e la Pen. Aida, come sei bella. Aida, come sei bella. Blu Radio Veneto. Blu Radio, Radio Sera. Blu Radio Sera. 8 minuti primi, siete sempre con Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale chiamata Blu Radio Sera, sempre con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara e con i Figli Unici. Abbiamo appena ascoltato la loro versione acustica di Aida del compianto Rino Gaetano. E allora, questa Aida era un'altra delle donne a cui era stata dedicata una canzone, però c'era un'altra canzone che aveva fatto scalpore e però forse era meno conosciuta, quella di I Love Marianna, che in molti pensavano che fosse il Rino Gaetano a pubblicizzare in altri termini quella che era la marijuana che stava facendo la comparsa da quelle parti. Invece era una canzone dedicata alla nonna. Trattasi della nonna, infatti tutti pensarono questo qui esordisce con il suo primo 45 giri, perché I Love Marianna è proprio il suo primo 45 giri, arriva nel 73 prima del primo disco, che è Ingresso Libero, e diciamo c'è questo grosso dubbio, queste voci che sembra che niente di tutto questo. Come al solito, anche questa è una delle canzoni divertenti di Rino, anche qui prende un po' in giro tutti, ma alla fine si tratta della nonna. Approfitto per dire che il pezzo eseguito prima, Aida, Rino Gaetano diciamo l'ha scritta prendendo ispirazione da un film di Bertolucci che è Novecento, e quindi diciamo ci sono dei riferimenti di un certo tipo. Io pensavo al Giuseppe Verdi con l'Aida, invece c'è stato il Bertolucci di mezzo per la sua ispirazione. E un'altra cosa interessante, lo chiedo a voi musicisti: se voi fate gli accordi di Aida, ricordo un pezzo di Bob Marley. Leggermente, non Woman Don't Cry, leggermente, perché lui l'aveva sentito prima, e quello è bello, l'aveva sentito prima. Ma lui suonava anche No Woman Don't Cry, esatto, suonava anche No. Ogni tanto amava particolarmente Bob Marley, difatti voleva fare la reggae totalmente Aida, poi le cose sono leggermente cambiate, però l'idea era quella. Bene, allora stiamo parlando con i Figli Unici, abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme, allora vorremmo capire quello che sarà il ruolo dei Figli Unici all'interno del 2012 e soprattutto quale sarà il ruolo di Rino Gaetano nel 2012 assieme ai Figli Unici. Una domanda complessa che però porta a una spiegazione di quelli che saranno i vostri progetti per il futuro. Continueremo a elaborare sempre di più le sue canzoni, portandole in giro per svariati locali, come abbiamo accennato prima, da Treviso a Stra, quello delle province di Venezia, Padova, saremo al Bignasego a marzo, in varie anche trattorie, perché noi siamo avanti del buon cibo, come dicevamo sì. prima, e non solo. In effetti, quindi... apriamo una parentesi, prima della trasmissione mi ha sorpreso, ma assolutamente in positivo, il taglio, diciamo, online, di un buon salame fresco, datato 29 novembre. No, 29 settembre, e in più dell'ottimo vino rosso che si faceva bere da solo, e vogliamo ricordare il tipo di vino a questo un buon punto. Cabernet del mio amico Luigino, che ecco qua, salutiamo Luigino, salutiamo, è finito il vino, che sì. Purtroppo è finito, vi avvisiamo che sì. è finito sì. No. La soppressa sì. La soppressa viene ancora un po', c'è ancora per il post serata bene, così. Quindi ce ne saranno ancora anche sì. dopo la trasmissione. Ricordiamo che abbiamo scattato qualche foto, stiamo anche registrando la puntata, perché poi naturalmente ci sarà la possibilità di riascoltare questa trasmissione, naturalmente quando ne avrete voglia andrete nel vostro bel sito internet e andrete a vedere, anzi a gustarvi le foto assieme all'ascolto dei pezzi che hanno proposto anche in questa serata i Figli Unici. E abbiamo ancora qualcosa da disco? Mettiamo un non te regge più? Sì, mettiamo un non te regge. Visto che stavamo parlando appunto del esatto. vino che era finito, altre cose, magari esatto. il non te regge ci stava. Parlavamo prima appunto del reggae che è stato portato in Italia per la prima volta da Rino Gaetano. Canzone che è scaturita da un episodio simpatico a cui prima Alessandro ci accennava. E diciamo che possiamo ascoltarlo, pezzo ancora attualissimo, sono passati vabbè. 30 anni e ci stupisce ogni volta che lo di questa ne puoi fare una all'anno, perché tanto basta che cambi qualche nome di qualche persona, è sempre attuale, ma basta cambiarne proprio pochi, perché la metà sono ancora lì seduti su quella poltrona. Sì. Le altre cose, ogni primo maggio mi sembra che venga riproposta questa non te regge più, se non sbaglio quest'anno c'era Caparezza a cantarla, sì, sì, no? Sì, la cantava lui, sì. Sì. Esattamente. Sì. E aveva cambiato i personaggi, come è uscito anche un sì. CD da poco, sempre con le sue canzoni di Rino, dalla parte di Rino, dalla parte di Rino riarrangiate da vari cantautori, Vecchioni, Silvestri, dalla BFM. Esattamente, in cui Roy Paci reinterpreta con nomi nuovi questa canzone, con i nomi dei personaggi pubblici di questo periodo. Infatti bene. Tu Alessandro canti la versione di Roy Paci, perché c'è è più attuale, cioè parlare di Monzon, Panatta, Rivera, D'Ambrosio magari sì. tanti non li conoscono neanche, mentre invece parlare della Gelmini, Briatore, Morgan e l'Avventura è più attuale. Certo, ascoltiamo allora non te regge più, questo in versione originale. Blu Radio Sera. La castità non te regge più, la verginità non te regge più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni non te regge più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati non te regge più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Non più. E ala la, non più. PCPC. DCDC non te regge più, PCPC blibri, DCDC, DCDC cazza niga non te regge più, Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Dribla Causio che passa Tartelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli non te regge più, Gianni Brera non te regge più, e Arzat. Tre che più. Monzo, Panatta, Rivera d'Ambrosio, Laudateni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Novi Donne Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Tre che più. Parlamentare, tre che più, abbassale il numero 5, sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi sia consentito dire, tre che più, il nostro partito serio, certo, disponibile al confronto, d'accordo, nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sesso, è tutto un cess, ci sarà la res. Se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu? Non te regge più. Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta, Cartier Carden Gucci, Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente. Ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, l'anivers ci giurerò, è meglio, che bella sera, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella sera, che bella, non te regge più, che bella, l'anivers ci giurerò, sei meglio, che bella sera, non te regge più. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Era il 1978 con Un Te Regge Più, questo 33 giri di Rino Gaetano, accompagnato anche da un 45 giri dove dietro il Non Te Regge Più c'era E Cantava le Canzoni. Altro splendido pezzo di Rino Gaetano, e noi siamo in compagnia ancora per pochi minuti assieme ai Figli Unici, che sono venuti a presentarci il loro progetto per diffondere la musica di Rino Gaetano. E allora, questo Non Te Regge Più l'abbiamo commentato prima, era questa presa in giro di Rino Gaetano nei confronti dell'amico, che poi si è manifestato ulteriormente nei confronti della sua grande amica, l'Italia. Esatto, il problema è che questa canzone noi la conosciamo così, però in effetti non è la versione originale, sarebbe dovuta essere un'altra versione che parlava di persone ancora più scomode, tra cui Michele Sindona, che era il cassiere della mafia, di quel quindi tempo, era qualcuno, forse qualche discografico gli ha detto che forse sarebbe stato il caso di non scrivere certi nomi. E vabbè, insomma, anche perché si andava direttamente verso i servizi segreti e sì, quindi infatti, l'immediata eliminazione della persona in senso fisico. Ci aveva visto in fondo. Ecco, ci aveva visto fino in fondo. Esatto. Questa un'altra cosa grande di quello che ha fatto Rino Gaetano. Adesso, visto che abbiamo ancora pochi minuti, come si diceva prima, un altro pezzo live che riguarda sempre la vostra, diciamo, carriera come Figli Unici, riportando un'altra canzone di Rino Gaetano. Allora, abbiamo deciso di fare un pezzo molto particolare che è tratto dal primo album Ingresso Libero, quindi del 74, che si chiama E la vecchia salta con l'asta. ha un testo molto particolare, perché parla di cavalieri, parla di cavalieri che partono alla ricerca dell'amore, e che noi in live abbiamo riarrangiato con, in una maniera abbastanza particolare, che quindi invito chi ci sta ascoltando a venirci a sentire dal vivo, perché secondo me è un pezzo che li lascerà piacevolmente sorpresi. Adesso lo riproponiamo in versione acustica. Benissimo. Questa fiaba. Solitario nel vecchio castello, consumando la triste vigilia, inedito annaffia l'antico rampollo, coniato negli anni d'antica famiglia. Non valse l'amore di tre cortigiane per divietar le mottoi copianto, nel rosso nettere di tre damigiane, l'erede partito, il cavallo e il suo manto. Nella foresta di faggi segati, nuvole acerbe di cieli malati, come gli illusi e le assurde chimere, seguendo l'amore partì il cavaliere. Tremila città, 3000 villaggi, la sagoma bianca striata di facci, scordò la sua terra, scordò la sua casta, rimase una vecchia che salta con l'asta. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La vecchia con l'asta, un altro pezzo. Solo chi è veramente amante di Rino Gaetano è riuscito ad ascoltare questo pezzo nel tempo ed amarlo, però gli ascoltatori avranno apprezzato sicuramente questa versione dei Figli Unici. Naturalmente domani, subito per un regalo di Natale estremo, andare a prendersi un qualcosa di Rino Gaetano, che non sta mai male nella discografia assolutamente di una discoteca di una persona, nel proprio intimo, in quei dischi nascosti ci sta bene. Esatto. Anche un Rino Gaetano. Visto che stavamo parlando appunto di, prima ho introdotto il fatto che speriamo che tanti ascoltatori vengano a sentirci, chi è su Facebook ormai ci siamo tutti, può chiedere benissimo l'amicizia a Figli Unici e trova Sebastiano, chi lo trova in linea trova Sebastiano. Sì. E soprattutto il nostro nuovo sito, che è online da pochissimi giorni, che è www.figliunici.com, in cui trova chi siamo noi, trova le nostre foto e trova le nostre prossime date, soprattutto per chi ci vuole seguire, ecco. Autopromozione. A proposito di, abbiamo parlato di Ingresso, Ingresso Libero, che fu il primo disco di Rino Gaetano prodotto da Venditti, e Vincenzo Micocci, che era il leader dell'IT, disse: quando arrivarono Venditti e De Gregori avevano un portamento molto sindacale, mentre quando arrivò Rino Gaetano dice no, semplicemente ho questa idea di incidere questo album, cosa dici Vincenzo? Questo era il modo di proporsi di Rino Gaetano. Mentre Venditti e De Gregori, che avevano un giornalista ha scritto in una recensione, erano molto alti anche dal punto di vista così di approccio, mentre Rino Gaetano è una persona molto semplice. Esattamente. Infatti è quello che voleva essere, non voleva essere schierato, non voleva essere esattamente un artista militante con la sinistra, destra, che fosse. Però diceva le cose, diceva le cose in modo semplice, ma le diceva. Esattamente. Bene, a proposito di come le diceva, c'è un altro pezzo che vogliamo ascoltare, mentre diciamo il tempo tiranno ci porta verso la fine. un altro pezzo che parlava esplicitamente di quello che è un tema assolutamente attuale e che vediamo tutti i giorni davanti alla pompa della benzina o del gasolio. Questo io dal vivo mi diverto con questo pezzo che è Spendi, Spandi e Fendi. È un pezzo che è del 77, però trae spunto dalla crisi petrolifera di metà degli anni 70, in cui l'austerity portava voi, perché noi non eravamo ancora nati, a viaggiare in bicicletta piuttosto che con il trasporto pubblico, e quindi toglieva tante libertà alle persone, però forse rendeva la vita magari un po' più genuina. Io mi ricordo l'unica volta che sono andato in tangenziale in bicicletta, avevo avuto 5 o 6 anni. Adesso per fare queste cose si inventano le domeniche a piedi, guarda te. È vero, è vero. Sì, esatto. Ed è qualcosa che con l'aumento delle accise di questi giorni ci tocca tutti nelle tasche, perché basta vedere cosa costa oggi un litro di gasolio o un litro di benzina. E Rino Gaetano ci ha fatto un bellissimo gioco su questa canzone, che parla appunto di persone che si fanno il palazzo sul Jumbo e di chi invece come noi corre ancora appresso al Lambo. Ecco qua, bene, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo per i saluti qui con i figli unici. Ascoltiamo allora Rino Gaetano, Spendi, Spandi e Fendi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Spendi, spendi, spendi, spendi e fendi. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E così abbiamo ascoltato la cronaca di quei tempi, che è assolutamente uguale a quella che stiamo vivendo adesso. Era l'agosto del 77, usciva anche il 45 giri, Spendi Spandi Affendi era il lato B di Aida che abbiamo annunciato prima, quindi chissà quando calerà il gasolio, chissà quando calerà la benzina. Questo Ho idea che questo pezzo resterà attuale ancora per molto tempo, ahi noi! Purtroppo. Vabbè, allora terminiamo qui. Vabbè, non c'è più carburante a questo punto. Non c'è più benzina, come si dice. Bisogna risparmiare. Bisogna risparmiare, all'insegna del risparmio. No, abbiamo purtroppo esaurito il tempo, anche se saremo andati avanti un po'. Abbraccio ancora per una noi, 40 minuti, un'oretta abbondante, però. Ecco, lasciamo il posto anche al collega che ci ha già prestato alcuni minuti del suo tempo. Ricordiamo, anzi, più tardi ci sarà Renato Ferro col suo programma di hard rock e heavy metal, che ecco. Cesare, il nostro bassista, è una cosa che il bassista Cesare ha deciso di restare. Benissimo. Sarà co-conduttore. le sedie ci sono. Allora ringraziamo i figli unici. Grazie a voi. Flavio, grazie. Maurizio e tutto lo staff di Blu Radio Veneto. Grazie a voi. Vi ringraziamo perché avete riproposto, e con un certo coraggio, anche quelle che sono le musiche di Rino Gaetano, i testi di questo grande artista che si è fatto amare e odiare in un certo senso, e voi avete, come dire, il coraggio di portare avanti un messaggio, e non solamente portare avanti le canzoni fini a se stesse. Esatto, riportiamo avanti quel messaggio che ormai si è fermato 30 anni fa, ma lo portiamo avanti ancora. E noi invece ci terrei a sottolineare che ringraziamo voi per averci dato l'opportunità di essere qui e di far conoscere la nostra musica, ma soprattutto la musica di Rino Gaetano. E ringraziamo il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che grazie a lui siete qua stasera. Grazie anche a lui. E adesso grazie, aspettiamo mille. Tutti davanti al nostro palco, ai nostri palchi futuri. Gente, anche qualche ragazza che non fa mai male. Quindi il nostro Alessandro è single, quindi sì, per quello. Ricordatevi dei figli unici per allietarvi la serata con le canzoni di Rino Gaetano e non solo. E allora ragazzi, noi vi salutiamo, io e Maurizio ce ne andiamo, vi lasciamo i microfoni aperti per un ultimo pezzo per i nostri ascoltatori. Esatto, facciamo il pezzo che è uno dei più rappresentativi di Rino, diciamo quasi un inno. Un pezzo bellissimo, ma il cielo è sempre più blu. Benissimo, allora noi vi salutiamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Solito grande caloroso ciao, grazie ai figli unici, e il cielo è sempre più blu. Speriamo. Bene. Gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato, na na na na na na na na na na na na. Ma il cielo è sempre più blu. Gioca d'azzardo, chi tira la bomba, chi nasconde la mano, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spa piazze e cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara. Ma il cielo è sempre, è più blu, è più blu, è più blu, è più blu, il cielo è sempre il più blu. Che ha fatto cilecca, che ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda e chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende sai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende i 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu, è più blu, è più blu, è più blu, è più blu, il cielo è sempre più blu. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.